Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 668, puntata ricchissima di novità discografiche, molte dall'estero ma anche dall'Italia. Abbiamo delle belle novità interessanti, stimolanti e di qualità. Cominciamo subito con nomi importanti a livello internazionale. George e Chico Freeman, che hanno realizzato un bel CD intitolato All in the Family con l'ausilio di molti musicisti special guest che si susseguono nelle varie tracce. Il CD è veramente molto gradevole, ascoltabile con scioltezza, con una grande naturalezza, si gode di ogni composizione e di ogni arrangiamento veramente dal primo all'ultimo pezzo. George Freeman alla chitarra, Chico Freeman al sax tenore e soprano, Kirk Brown al pianoforte e alle tastiere, Harrison Bankhead al basso e alla voce, Amy Drake alla batteria e percussioni, Rito Weber alla percussioni, Mike Alemana alla chitarra, Joe Jenkins alla batteria e poi abbiamo anche due coristi che sono Johnny Pallatto e George Freeman in un pezzo del CD. Stasera ho scelto per voi una composizione originale di Chico Freeman intitolata Latina Bonita. Buon ascolto quindi con il gruppo capeggiato da George Freeman e Chico Freeman. Thank you. Bene, questa era la musica di George and Chico Freeman. All in the Family è il titolo del CD di questa accoppiata vincente, che è supportata da ottimi musicisti. In questo progetto discografico figurano anche Kirk Brown, Harrison Bankhead, Amy Drake, Rito Weber, Mike Alemana e Joe Jenkins. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Latina Bonita ed era un pezzo di Chico Freeman. Sicuramente tutto il CD è molto latin e vive di queste atmosfere, di queste belle energie che i due musicisti, accompagnati da ottimi compagni d'avventura, sanno creare con grande professionalità e anche con bella energia. Dopo George and Chico Freeman, dal CD All in the Family, è il momento di passare ad altre contaminazioni del jazz, in questo caso del tango, e passiamo appunto al gruppo Sertango. Gruppo Sertango che ha realizzato un nuovo CD intitolato El Barrio, veramente molto bello, con delle composizioni originali veramente interessanti, e poi anche un paio di arrangiamenti molto stimolanti e originali di pezzi di Astor Piazzolla, ma la cosa e non solo, anche di Carlos Gardel, ma la cosa interessante è che si siano messi in gioco anche proprio con composizioni originali che sentirete, sono molto interessanti, molto belle. Il gruppo Sertango è composto da Ivano Biscardi alla fisarmonica, Bruno Aloise alla chitarra, Virginio Aiello al pianoforte, all'organo Hammond, e poi Corrado Aloise alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è intitolato Fugato ed è una composizione originale di Ivano Biscardi e Virginio Aiello. Dal CD El Barrio, buon ascolto con Sertango. Thank you. Passione per il tango, l'amore per questa grande musica calda, sensuale. Ser Tango, questo gruppo formato da Ivano Biscardi all'accordeon, poi Bruno Aloisa alla chitarra, Virginio Aiello all'organo, Hammond al pianoforte, Corrado Aloise alla batteria. Un gruppo veramente molto ben assortito di ottimi musicisti, compositori interessanti che stasera ci hanno offerto questa composizione originale intitolata Fugato, composta da Ivano Biscardi e Virginio Aiello, tratta dal loro CD El Barrio, una composizione ricca di atmosfere molto particolari, di tensioni vitali che riescono a mantenere viva l'attenzione dal primo all'ultimo momento, conquistando l'ascoltatore. Un bel CD, come dicevo prima, ricco di composizioni originali e anche di belle interpretazioni, di belli arrangiamenti di pezzi di Astor Piazzolla e di Carlos Gardel. Un CD veramente meritevole della massima attenzione. Il gruppo si chiama, lo ricordo ancora una volta, Ser Tango, e il CD è intitolato El Barrio. E adesso, sempre per questa che io chiamo l'altalena tra il jazz italiano e il jazz internazionale, che mi piace sempre fare per fare anche dei, non voglio dire dei confronti, ma insomma così per alternare gli ascolti tra ciò che si compone nel nostro paese, che si produce nel nostro paese, e quello che invece accade all'estero. È molto stimolante tutto questo, specialmente se possiamo anche, tra l'altro, cambiare linguaggi e quindi ricordarci quanto il jazz sia aperto a tante contaminazioni, a tanti aspetti, ambientazioni musicali che riesce poi in qualche modo ad abbracciare, ad avvolgere, a far suo e a riproporre sempre attraverso l'improvvisazione, la fantasia creativa che gli è propria. E quindi proseguiamo con Dusan Jevtovic, un ottimo chitarrista che per la Monjun Records ha realizzato un CD intitolato Am I Walking Wrong? Un CD realizzato in trio con Bernat Hernandez al basso e Marco Georgievic alla batteria, e dal quale noi potremo ascoltare una bella composizione originale intitolata 101. Buon ascolto quindi con Dusan Jevtovic Trio. Bene, questo era il chitarrista Dusan Jevtovic con la sua ricerca musicale che spazia nel rock, così come la tendenza della linea musicale tenuta sempre dalle pubblicazioni di Moonjoon Records, che va a sperimentare sempre anche nuove presenze in luoghi geografici mondiali non certo battuti dal grande mercato, e scoprendo anche sempre nuovi talenti veramente interessanti. In questo caso ci siamo ascoltati Dusan Jevtovic in trio con Bernat Hernandez al basso e Marco Giorgevic alla batteria. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato 101 ed era una composizione originale dello stesso Dusan Jevtovic, tratta dal CD Am I Walking Wrong, un CD ricco di grande energia, in alcuni casi anche proprio deflagrante, che mette in evidenza le grandi capacità di Dusan Jevtovic alla chitarra, ma anche le capacità compositive interessanti e particolari. Am I Walking Wrong è il titolo del CD pubblicato dalla Moonjoon Records. E adesso cambiamo ancora una volta genere, linguaggio, sempre pur all'interno di questo jazz dalle grandi braccia, ed andiamoci ad ascoltare Mario Ermoli. Mario Ermoli Trio, un artista, Mario Ermoli, non solo valido sul piano strumentale, pianista, suonatore di varie diavolerie elettroniche, usa il sintetizzatore eccetera con grande professionalità, ma anche con grande sensibilità, è accompagnato da Germano Zenga al sax tenore e soprano e Giacomo Tagliavia al contrabbasso. Si tratta di un musicista che cerca una strada propria al jazz attraverso ambientazioni molto stimolanti, particolari, creativi, capaci di creare delle ambientazioni veramente suggestive e interessanti. Stasera noi, da questo CD intitolato Stereoscape, pubblicato dalla Ultrasound Records, potremo ascoltare una sua composizione originale intitolata Prospect Park, che è anche il pezzo che apre l'album. Buon ascolto quindi con Mario Ermoli in trio. Thank you. E questa era la musica di Mario Ermoli, una composizione originale, tra l'altro il pezzo che apre l'album, intitolato Prospect Park, che ci ha affascinati con la sua ambientazione musicale davvero particolare, elegante, interessante, stimolante, con questa elettronica usata veramente con grande proprietà di linguaggio e in modo molto armonioso insieme al resto della strumentazione. Mario Ermoli suona il piano, il sintetizzatore, la drum machine, cura l'elettronica, insieme a Germano Zenga al sax tenore e soprano, Giacomo Tagliavia al contrabbasso, un trio molto complice in questo progetto discografico intitolato Stereoscape, pubblicato dalla Ultrasound Records, ricco di composizioni originali veramente molto particolari e interessanti, che inducono a un ascolto attento e nello stesso tempo anche capace questo progetto discografico di far volare con la fantasia, di accompagnare in una sorta di sogno molto interessante. Lasciamo Mario Ermoli con il suo trio e il suo CD Stereoscape per ritornare all'estero ancora una volta, e ci ritorniamo con Katie Tirou, un artista che io ho conosciuto da pochissimo tempo, ho avuto piacere di poter ascoltare questo suo progetto discografico interessante e che presenta Katie Tirou a un pubblico internazionale, intitolato Introducing Katie Tirou, dal quale ho selezionato per voi questa bella interpretazione intitolata Don't Be on the Outside. Buon ascolto quindi con Katie Tirou. Don't be on the outside, look out on the inside. If you're on the inside, look out on the outside. Things that look exciting seldom are inviting, so stay on your side. Don't be on the wrong side, look out on the right side. If you're on the right side, look out on the wrong side. Everything you see don't really have to be, so stay on your side. The grass looks greener when it's on the other side. Seeing ain't believing, looks are so deceiving, don't be taken for a ride. Don't be on the outside, look out on the inside. If you're on the inside, look out on the outside. Take this fool's advice, it's worth the sacrifice, and stay on your side. Really have to be, so stay on your side. Everything you sit on really have to be, so stay on your side. Bene, questa era la gradevole voce di Katie Theroux. Introducing Katie Theroux è il titolo del CD dal quale noi abbiamo ascoltato Don't Be on the Outside, una composizione originale di Katie Theroux. Katie Theroux, che è bassista, cantante e compositrice, e che canta, come avete sentito, con grande scioltezza, con grande naturalezza, con grande proprietà di linguaggio, una cantante che ricorda le grandi del passato e che sposa la grande tradizione pur vivendo anche pienamente la contemporaneità. Un bel CD questo, Introducing Katie Theroux, che dà i vari aspetti, che offre i vari aspetti di questa cantante interessante. Katie Theroux è supportata dal chitarrista Graham Dechter e dal sassofonista Roger Neumann e dal batterista Matt Vitek. Ricordo il titolo del CD, Introducing Katie Theroux, con la voce di Katie Theroux. E adesso andiamo avanti con ancora delle voci queste volta che vengono dall'Italia. Il gruppo si chiama The Robin Gels, stanno preparando il loro primo progetto discografico in una sorta di aperitivo per gustare il loro stile, il loro linguaggio. Abbiamo avuto l'opportunità di potervi far ascoltare questa canzone intitolata I Know Why, scritta da Gordon e Warren, dal repertorio di Glenn Miller. Il gruppo è formato da Noemi Garbo, soprano, Daniela Placci, soprano, Oli Nisci, alto, e Paolo Volante accompagna questo trio vocale al pianoforte. Ascoltiamoci quindi l'interpretazione di I Know Why delle Robin Gels. Buon ascolto. You possess a magic something that has me spellbound when you are near. Just a certain charming something when you're beside me, miracles appear. For when I look at you, life's a grand illusion. Why do robins sing in December? Sigh every evening, whispering your name as they do. And why have I the feeling stars are on my ceiling? I know why, and so do you. When you smile at me, I hear dips in my springtime is new. Bene, queste erano The Robin Girls, queste ragazze veramente molto brave, gradevoli all'ascolto, ben coordinate, intonate, gentili nella loro esposizione, che ci hanno offerto questa loro interpretazione di I Know Why di Gordon e Warren dal repertorio di Glenn Miller, accompagnate al pianoforte dal valido Paolo Volante. The Robin Girls sono al lavoro per la preparazione del loro primo CD che avremo poi occasione di poter ascoltare nell'autunno prossimo. Intanto appunto un'anticipazione sul loro linguaggio, sul loro stile, su questa pubblicazione discografica che quando ci arriverà sicuramente avremo occasione di poter ascoltare nuovamente The Robin Girls e di promuoverle nei nostri programmi. E continuiamo con l'ottimo jazz italiano. A proporcelo è una vecchia conoscenza, anzi una doppia vecchia conoscenza, Yuri Daldan con il suo trio insieme allo special guest Francesco Bearzatti. Yuri Daldan al pianoforte, Romano Tedesco al contrabbasso, Alessandro Manzutti alla batteria, questo trio che si incontra con lo straordinario sassofonista Francesco Bearzatti per dar vita a questo interessantissimo CD intitolato Joseph, dal quale noi potremo ascoltare una composizione originale scritta da Yuri Daldan intitolata Sagres. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica di Yuri Daldan, ottimo pianista ma anche validissimo compositore. Yuri Daldan si presenta con questo nuovo progetto discografico intitolato Josef, con il suo trio, quindi Yuri Daldan al pianoforte, Romano Todesco al contrabbasso e Alessandro Manzutti alla batteria, che vive questo straordinario incontro con Francesco Bearzatti, uno dei più prestigiosi ed interessanti sassofonisti jazz italiani ma conosciuti anche all'estero. Un CD che mi piace ricordare vive di armonie del nostro paese. Il jazz italiano, che io da moltissimi anni vado dicendo non essere più secondo a nessuno, ha delle sue connotazioni per il grande background culturale che possiamo vantare, non solo di musica popolare, di musica etnica, chiamiamola così, ma anche di musica classica, di musica operistica. In questo caso il nostro jazz ancora si esprime con dei colori e delle tavolozze proprie, e Yuri Daldan con questo progetto Josef, nel quale vive la presenza anche del grande Francesco Bearzatti, ne dà un bell'esempio. Lasciamo Yuri Daldan, che ci ha proposto questa sua composizione originale intitolata Sagres, tratta dal CD Josef, e andiamo avanti ritornando all'estero con David Thorn, che per la ECM ha realizzato un CD intitolato Only Sky. David Thorn alla chitarra, all'Electric Coad. Ascoltiamoci quindi David Thorn in una delle sue composizioni originali che presenta in questo CD, ripeto, intitolato Only Sky, e il pezzo è intitolato Ok Shorty. Buon ascolto. Thank you. Bene, queste erano le particolari atmosfere di David Thorne, chitarrista che ha realizzato Only Sky, questo particolare CD pubblicato dalla ECM, dal quale ci siamo ascoltati OK Shorty. Dopo la bravura tecnica e la poesia particolare di David Thorne, è il momento di una cantante italiana, Alice Testa, che è stata anche selezionata per il prossimo Festival delle Voci Jazz Italiane, che partirà ad ottobre. Per la Azzurra Music ha realizzato un CD intitolato Alice's Room, insieme a Matteo Alfonso al pianoforte alle tastiere, Lorenzo Conte al basso, Kyle Pool alla batteria, e poi ci sono anche altri ospiti come Giancarlo Bianchetti e Francesco Gemignani. Il pezzo che ci ascolteremo stasera e che chiude anche il nostro programma è una composizione originale del pianista del gruppo Matteo Alfonso, intitolato Axis Science 0.2. Buon ascolto. Thank you. Questa era la voce di Alice Testa che ci ha proposto Exit Signs 0.2, una composizione originale di Matteo Alfonso, pianista del suo quartetto, tratto dal CD Alice's Room. Il quartetto è formato da Alice Testa alla voce, Matteo Alfonso al pianoforte, Lorenzo Conte al contrabbasso, Kyle Poole alla batteria. Il pezzo che ci siamo ascoltati, Exit Signs 0.2, è un pezzo che mette in evidenza la grande professionalità di Alice Testa, che controlla con scioltezza e naturalezza anche i momenti più difficili di questa performance. Grande eleganza, raffinatezza e un equilibrio ottimo, che fa di questa cantante una tra le più interessanti del nuovo panorama vocale jazz italiano. Sicuramente un CD godibile dal primo all'ultimo pezzo, che ha valso la segnalazione di questa cantante per il prossimo Dubidubidù 2015. L'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, festival nel quale riascolteremo appunto Alice Testa. Con questo si conclude anche questa nostra puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.